9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no, tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no? Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di ottobre, oggi 1° ottobre, Santa Teresa di Gesù, onore e auguri a chi lo festeggia, si chiama Teresa in questo giorno. Settimana difficile, questa sarà per molti scioperi annunciati nei trasporti, a partire da oggi e domani incrociano le braccia gli addetti dei servizi ferroviari di pulizia, poi c'è uno sciopero nazionale di domani, esattamente in questo settore, indiviso in città per città per i trasporti locali, e quindi le città si bloccano praticamente per tutta la settimana. Posso chiedere una cosa, ma questi scioperi nei trasporti, quando è che capiamo che non bisogna farli più, perché non bisogna trasportare sui poveri lavoratori che viaggiano? Le proteste dei lavoratori dei trasporti nei paesi civili non avviene. Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no, no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Seconda pillola, leggete oggi sul Corriere della Sera, leggete la bella idea che c'era stata in teoria per rendere più sinergici i conti della Previdenza, l'unione dell'INPS con l'INPTAP. Che cos'è l'INPTAP? L'Istituto dei Dipendenti Pubblici, e con l'EMPALS, che è invece quello che raccoglieva i contributi dello sport e spettacolo. Ebbene, la cassa degli statali manda in rosso l'INPS per quasi 10 miliardi. Perché? Perché le amministrazioni pubbliche, come sempre fedeli alla linea dello Stato ladro, loro i contributi non li pagavano, Stato a Stato. Voi capite, i contributi li devono pagare i privati, mica lo Stato sullo Stato. Adesso fusione, 10 miliardi di perdita per l'INPS. E chi li pagherà secondo voi? Noi, i soliti fessi, mentre loro le amministrazioni pubbliche se ne fregavano. Che schifo! Vengo anch'io, no tu no! Vengo anch'io, no tu no! Vengo anch'io, no tu no! Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no! Allora, il vengo anch'io, no tu no, questo giorno è particolarmente, secondo me, adatto, perché in questa puntata, in questo inizio di ottobre, torniamo a un tema classico in questo 2012 terribile, che da questi microfoni ci ha visto spessissimo dare voce e prestare ascolto, rilanciare le loro proteste, ma anche ascoltare con molto rispetto centinaia e migliaia di casi di piccola impresa, di artigiani, di professionisti, di commercianti, dei loro collaboratori, di chi lavorava con loro, dei loro dipendenti, fornitori, per ascoltare ciò che dal profondo viene dalla terribile discontinuità che nel mondo della piccola impresa c'è in questo 2012, segnato da fattori che non hanno precedenti dal secondo dopoguerra, come il calo del reddito disponibile delle famiglie a meno del 3%, il calo della quota di questo reddito volta ai consumi meno 3,5%, la condizione in cui siamo e che ci consegna un 2012 al termine del quale potremmo essere a meno 120.000 unità nel saldo complessivo, con un saldo che non dice tutta la verità, perché molte delle imprese che chiudono hanno dipendenti, ovviamente, mentre moltissime posizioni di impresa che si aprono sono solo disoccupati che tentano la via dell'autoimpiego, ma rimangono poi seduti sui talloni di fronte alle cose che non vanno. La scorsa settimana in Veneto altri quattro imprenditori che si sono levati la vita. E allora abbiamo deciso, di fronte a questa recrudescenza, di tornare sull'argomento, perché purtroppo le storie sono tante e i nostri indirizzi continuano ad arrivare. E allora, di fronte alla scorsa settimana al caso di Antonio Maria Pedrazzoli, 49enne, che si è tolto la vita nella sua ditta a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, con un colpo di pistola. Pochi giorni prima si era ucciso a Padova un odontotecnico di 58 anni. E martedì della settimana scorsa era stato un artigiano a togliersi la vita nel veneziano a Noale, Raffaele Rubinacci si chiamava, 52 anni. E anche lui lamentava il fatto che di commesse non ce n'erano più, la difficoltà di farsi pagare per i lavori già svolti, i debiti crescevano, l'angoscia aveva vinto nella sua vita. E quindi lui si è impiccato e l'ha trovato la compagna rientrando a casa. E il giorno prima si era tirato un colpo di fucile un impresario edile di Campagna Doppia, 47 anni, Livio Andreato, e non aveva più un minimo di equilibrio Livio, perché doveva lasciare la casa dei genitori, che aveva dovuto vendere per far fronte ai creditori. Ecco, allora, la somma di questi episodi, tutti concentrati poi in Veneto, a pochi chilometri l'uno dall'altro, in una sola regione, ci ha fatto molto molto pensare. E allora cominciamo questa giornata di ascolto di nuovo, innanzitutto con, di molto la ringrazio, con la figlia di un imprenditore che a fine del 2011 ha compiuto un gesto analogo. Si chiama Laura Tamiozzo, e anche suo padre era un imprenditore edile della provincia di Vicenza, che a fine anno, l'ultimo dell'anno del 2011, si è levato la vita nel capannone della sua azienda, dopo aver vissuto tutta la vita per il suo azienda e per la sua azienda e per chi lavorava insieme a lui. Ecco, Laura Tamiozzo, fin dai primi giorni dopo la terribile decisione assunta da suo padre, ha volto il dolore in una carica costruttiva, ha tentato di farlo. Ed è anche grazie alle sue testimonianze che poi in Veneto si è messo in moto un primo anello di iniziative, come l'associazione Speranza al Lavoro, come i primi telefoni per dare ascolto e tentare di risolvere i problemi per evitare casi tragici di questo tipo. Ecco, e cominciamo proprio con Laura Tamiozzo, che è a telefono con noi insieme agli animatori di una di queste delle prime iniziative che sono nate, l'associazione Speranza al Lavoro. Intanto buongiorno e grazie a Laura per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno Oscar. Allora, posso chiederti, a distanza di non troppi mesi da quello che ha deciso di fare tuo padre, come, di fronte a ogni nuova notizia di questo tipo, è possibile andare avanti con un po' di speranza per una che ha avuto l'esperienza che hai tu? Ma nel sentire di questi imprenditori che continuano a togliersi la vita, sinceramente non è facile, perché comunque si rivive sempre comunque nella memoria certe situazioni, certe situazioni di vita non facili. E nel vedere che questi imprenditori, cioè, ci sono ancora tanti imprenditori che purtroppo scelgono questa via come fosse l'ultima via, è un qualcosa che fa pensare, perché c'è ancora molta indifferenza sull'argomento e si vede che non c'è assolutamente nessun aiuto, nessun interesse nel capire qual è effettivamente la problematica di questi imprenditori. Gli imprenditori sono ad oggi ancora lasciati soli. Quando, pochi mesi dopo che tuo padre aveva preso la decisione, è capitato altre volte che tu abbia preso carta e penna e scritto, incontrato, ti sia messo a dialogare con i familiari di altri casi analoghi che sono capitati. Secondo te, a distanza di qualche mese oramai, dal fatto che questo fenomeno purtroppo non arretra ma continua, se dovessi dare una sola indicazione concreta di che cosa si poteva fare e non è stato fatto, che cosa diresti? Ma questo non di poi non è facile rispondere a questa domanda. Di sicuro le problematiche che riguardano le aziende, che riguardano comunque i problemi reali degli imprenditori, non vengono trattati in maniera adeguata. Io vorrei più attenzione da parte comunque delle istituzioni politiche, perché gli imprenditori sono lasciati soli. E purtroppo c'è da rendersi conto che una volta che un imprenditore o comunque una persona arriva a compiere un gesto del genere, poi la solitudine viene vissuta in primo piano dai familiari stessi. Quindi è un sentirsi, diciamo, isolati una seconda volta per chi vive questo genere di dramma. Secondo te perché così tanti nel nord-est e in Veneto? Scusi, non ho capito. Secondo te perché così tanti casi nel nord-est e in Veneto? Ma perché nel Veneto il lavoro fa parte della vita di una persona. Diciamo che un imprenditore fa della propria vita il lavoro. È proprio il centro della propria vita. Io per esempio, diciamo l'esempio di mio padre, che ha sempre vissuto in funzione della sua azienda, cioè la sua vita era in funzione della sua azienda. Quando ha cominciato a vedere che comunque l'azienda cominciava ad avere problemi, non aveva più continuità, era lì lì per il tracollo, ha ceduto, non ce l'ha più fatta. Purtroppo è la mentalità di Veneti, la Veneti purtroppo vivono il lavoro come una parte integrante della loro vita, qualcosa di indispensabile. E che naturalmente finché le cose poi funzionano, quando poi improvvisamente uno può pensare che ci sia un momento di stanca, ma quando poi questo momento di stanca va sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, è come se certo, si rompesse la ragione fondamentale della propria vita. Io intanto ti ringrazio Laura per la testimonianza che continui a rendere, perché credo che poi il raccontarlo direttamente quando brucia sulla propria pelle la decisione che il proprio padre ha assunto, certo, consenta di moltiplicare, ecco, l'istanza alla politica e al mondo delle associazioni e delle imprese di tentare di colmare questo vuoto di solitudine che ancora, come tu giustamente dici, secondo me grava sulle spalle degli piccoli imprenditori. E passiamo a chi questo appello l'ha raccolto fin dall'inizio, e con noi Salvatore Federico, che è il segretario generale della Filca CISL Veneto, quindi stiamo parlando del sindacato nel settore delle costruzioni della CISL del Veneto, e che è stato tra i fondatori dell'associazione Speranza al Lavoro. Buongiorno e grazie. Buongiorno a Salvatore Federico. Buongiorno. Allora, vogliamo un secondo parlare di quando avete deciso e con che risorse avete messo in piedi questa associazione Speranza Lavoro e che cosa siete riusciti a fare in questi mesi? Beh, innanzitutto noi di Speranza Lavoro abbiamo iniziato a pensare a Speranza Lavoro ancora un anno fa, circa un anno fa. Speranza Lavoro è nata in aprile, è nata grazie, e questo voglio sempre ricordarlo, lo ricordo sempre, al coraggio della Laura Tamioz e della Flavia Schiavo, che oltre che aver sofferto un dramma nella loro famiglia, quindi la perdita dei propri genitori, del proprio papà, hanno avuto il coraggio di metterci la faccia, che non è facile. Ci hanno messo la faccia e hanno aiutato la nascita di Speranza Lavoro, quindi imprenditori e lavoratori assieme per cercare di dare una svolta, per cercare di dare un aiuto. Come spesso dice Laura Tamioz, la nostra presidente, che nessuno si senta più solo come si è sentito suo padre. Cioè, quindi noi in questo periodo cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme alcune convenzioni, quella che va per la maggiore, quella con l'Ordine dei Psicologi del Veneto, che vanno ringraziati perché hanno dato una bella disponibilità anche dal punto di vista di rinuncia dei propri compensi e cercare di venire incontro a delle iniziative che noi stiamo facendo nelle aziende. Nelle aziende stiamo facendo delle iniziative con la presenza dello psicologo esperto dei problemi del lavoro per parlare di disagio e addirittura in certe situazioni parliamo anche di benessere organizzativo, per aiutare a dare alle persone e all'azienda, perché sono riunioni dove si fanno assieme lavoratori e azienda, una nuova chiave di lettura da leggere a questa crisi che colpisce moltissimo il lavoro, perché le banche hanno abbandonato l'impresa, l'hanno proprio abbandonata. con la scusa, con la storia del patto di stabilità non pagano, il pubblico non paga il privato non paga nei confronti dell'altro privato, cioè, e più nessuno paga nessuno, c'è veramente un blocco totale su questo. Noi con il nostro piccolo impegno stiamo cercando di dare da una parte risposta per quanto riguarda il disagio attraverso gli psicologi, quindi la convenzione che abbiamo fatto, dall'altra parte stiamo cercando con forza, ricercando l'impegno di tutte le altre associazioni e ricercando anche l'impegno della Regione, che pur si è complimentata nei nostri confronti per il percorso che stiamo portando avanti, di costruire una rete. Perché questo impegno non si può vincere singolarmente, ognuno per conto suo, dobbiamo mettere assieme le energie e dobbiamo assieme cercare di aiutare chi ne ha bisogno. Come già diceva la Laura, in Veneto sia per l'impresa e sia per i lavoratori il lavoro è centrale, è tutt'uno con la vita. Quindi vanno veramente aiutati sia gli imprenditori e sia i lavoratori, se non vogliamo che queste tragedie continuano, e noi vogliamo dire basta. Federico, nel settore vostro, rispetto a un anno fa, ha ragione chi, il Presidente del Consiglio parla negli ultimi mesi di luci che si vedono alla fine del tunnel, eccetera. Ci sono segnali veri di una, diciamo, diminuzione del tasso di decrescita, per così dire, nelle attività delle imprese, o chi ha un'impressione un po' diversa? Io ne ho una diversa, a me, io non li vedo questi segni, può essere che stia guardando settori veramente troppo colpiti, ma io in generale non li vedo. Ma in realtà in Veneto, da voi, la situazione secondo te negli ultimi mesi è davvero in miglioramento? Ma io penso che il Presidente del Consiglio un po' deve dire quello che dice, ma in realtà sul territorio noi stiamo passando dal disagio del scarso lavoro, della cassa integrazione, eccetera, stiamo passando alla disperazione, perché non si vede purtroppo nessuna luce in fondo al tunnel. Guarda, è proprio di questa mattina che alcuni colleghi mi riferivano di aziende che venerdì scorso si parlava di cassa integrazione, oggi si parla proprio di chiusura, cioè c'è veramente una situazione di disperazione e purtroppo io noto che questa situazione di disperazione assolutamente non tende a diminuire. Io devo dire poi che, insomma, anche queste ultime settimane cosa provano? Adesso, guardiamo un secondo, mettiamoci nei panni di chi, imprese che non hanno ordini e che non hanno circolante, i loro dipendenti e così via, devono continuare ad assistere al fatto che noi siamo da 2 anni con governi che si succedono e che dicono, mentre gli italiani tirano la cinghia disperatamente, tentano di pagare le tasse in più che lo Stato chiede loro, mentre invece le cose vanno male, e assistono poi al fatto che di settimana in settimana lo Stato continua a scoprire che ci sono pezzi interi, tutta la filiera delle regioni, tutta la filiera delle province, eccetera, eccetera, in cui ad onta delle spending review sulle tasse e sulle casse delle imprese e del lavoro, nel frattempo la politica non si era reso conto degli sprechi delle regioni, gli sprechi delle province e così via. Su, è una situazione di fronte alla quale spiegare alla gente che c'è il tunnel con la luce in fondo, secondo me, capisco che tu dica, Salvatore, che il Presidente del Consiglio deve alimentare per forza la fiducia, però gli italiani poi vedono le cose come vanno e dicono: ma chi vogliamo prendere per i fondelli? Cioè, dopo anni e anni lo Stato scopre oggi che cosa avviene davvero con i compensi pubblici, con i fondi che vengono divisi pro capite e messi in tasca. Ma sentiamo cosa pensa intanto di quello che si sta facendo con Emilia Laugelli. Siamo sempre in Veneto, perché Emilia Laugelli è responsabile del progetto Inoltre della Regione Veneto ed è responsabile di una unità operativa di psicologia clinica ospedaliera all'ospedale di Sant'Orso. Quindi qui stiamo parlando proprio di quel delicato ganglio che tenta di rispondere, di offrire un servizio di ascolto a chi si trova in una condizione di disagio preliminare proprio a quei gesti che continuano a essere compiuti, e sono i gesti poi di chi si toglie la vita. Quindi buongiorno e grazie ad Emilia Laugelli. Buongiorno. Buongiorno, dottor Giannino, buongiorno. Allora, noi più volte in questo anno ci siamo posti il problema di come e se sia possibile fare davvero poi questi interventi per evitare le tragedie. Al di là del dire ci organizziamo, mettiamo un telefono e vediamo, ma poi in concreto che ci sono verificati casi veri, cioè la gente ha fatto ricorso e fa ricorso a questo tipo di servizi? Guardi, dottor Giannino, l'aggiorno in tempo reale, a questa mattina in 3 mesi, il servizio è partito l'11 giugno, siamo a 176 telefonate, di cui 65 imprenditori o comunque persone che hanno partita IVA, piccoli padroncini che si sono rivolti a noi, che sono stati presi in carico e sono accompagnati. Accompagnati dove? Noi abbiamo voluto creare, su input della Regione Veneto, un progetto fortemente voluto dal governatore Zaia, e abbiamo voluto creare questo numero verde, questa piattaforma multimediale che sarà varata a giorni, dove risponde un pool di psicologi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, psicologi esperti in psicologia dell'emergenza e psicologia della salute. Dopodiché la telefonata, dopo aver valutato il grado di rischio, soprattutto del grado suicidario, vengono affidati a degli psicologi esperti anche in mediazione, uno per ogni provincia del Veneto, per cui sono un pool di psicologi a numero verde più questi 7 tutor che accompagnano la persona in un percorso importante per riuscire a rialzare la testa. Allora io ricordo, mi corregga se sbaglio, sì, che il numero verde regionale per questo in, sì, Veneto è 800-3343-43. Sì. Quindi in concreto noi possiamo dire che qualche altro caso, non sappiamo dire quanti, ma insomma è stato evitato. Quindi, guardi, le nostre esperienze, se potessero essere scritte, racconterebbero di storie affidate ai nostri operatori, di situazioni valutate insieme e di piccole uscite da quella che è prima di tutti la crisi della vita, tra virgolette, perché quando un imprenditore abituato a vedersi operativo, come diceva Laura Tamiozzo, a fare del lavoro tutta la propria vita, il centro dell'attenzione della propria vita, si trovano in grosse difficoltà, non riescono più a ricevere delle consegne, dei mandati, degli incarichi, a un certo punto scompare tutto quello che c'è intorno. Il nostro obiettivo è quello di farli guardare avanti, di trovare quella piccola luce, trasformando il momento di disperazione in un momento in cui forse insieme con gli altri, consegnando le proprie difficoltà a una persona che ti sa ascoltare, riesci a trovare uno spiraglio e poi aggrapparti. Con Speranza al Lavoro, nella fattispecie, io ho incontrato Laura, che saluto veramente col cuore, stiamo cercando di collaborare per mettere insieme da una parte la nostra disponibilità e le nostre risorse e fare rete soprattutto con loro. Poi, dottor Giannino, cosa vuole? Il Veneto è anche ricco di associazioni di volontariato, sì, le associazioni di categoria, le camere di commercio, le province, già da tempo, prima che nella primavera scorsa si siano succeduti tutti quegli eventi drammatici che stanno avendo continuità anche adesso, si sono messi insieme e hanno trovato singolarmente delle iniziative, però sono iniziative che lavorano ognuno per conto proprio. Il nostro obiettivo, che è il secondo obiettivo dopo l'ascolto al numero verde, è quello di creare una task force provinciale dove lo psicologo, l'operatore, tutor accompagna e riesce a portare i servizi nell'azienda della persona. I nostri colloqui infatti avvengono a domicilio, nell'azienda, in un luogo informale, laddove si riesce a far sentire l'istituzione vicina. Io sono un tecnico, lavoro in un ospedale, faccio assistenza insieme con i miei colleghi, facciamo assistenza anche a persone che non hanno più speranza di vita, tipo i malati oncologici. Come si fa a dire a dare speranza di vita a una persona che speranza non ne ha? Eppure si riesce a lavorare su quegli ultimi istanti di salute. Ecco, siccome l'imprenditore è persona viva, è persona capace, laddove ha bisogno, se riesce ad accostarsi a un servizio del genere, promuovendo salute, perché noi crediamo che la salute sta nelle relazioni delle persone. Io ho letto le storie di questi giorni a Campagna Lupia, a Noale, persone i cui familiari stessi dicono: era solo, non ce la fa stare solo, era solo, non siamo riusciti ad accorgerci del disagio. Bene, noi con questo piccolo intervento, utilizzando prima di tutto il numero verde, vorremmo rompere quella solitudine. La psicologia della salute va in questo senso: promuoviamo la relazione tra le persone, perché è da lì che si parte, per poi guardare al disagio economico, all'azienda che sta andando avanti, ad aiutarli a chiudere l'azienda. Allora io ringrazio in particolare Emilia, io sono molto attento perché sono un tipo di volontario che per i suoi problemi di cancro poi si è, per così dire, versato proprio nell'assistenza ai terminali giovani, e posso garantire che la relazione è non solo possibile, ma è utile, feconda ed è bilaterale con chi sa che non ha più molto di fronte a sé, ed è anche lì che si può far attecchire una speranza. La speranza in quel caso non è la vittoria, non è evitare purtroppo l'epilogo, come invece bisogna fare verso chi è solo disperato. Dico solo disperato rispetto alla condanna invece di una patologia che ti porta a morte certa, ma intesa come qualità degli ultime settimane, degli ultimi mesi di vita, nella ricchezza di un rapporto con una persona a fianco, questo vi posso garantire, anche ai più increduli di voi a casa, che gli effetti ci sono. Per quello che mi riguarda, restano nel mio cuore e nella mia anima come una delle parti più ricche della mia vita. Dico, al netto di mia moglie, è sicuramente la parte che mi ha dato di più, che mi ha dato, non in cui io ho dato, perché io ho ricevuto da ciascuno di loro questo. Quindi io ringrazio chi come Emilia Laugeli fa questo mestiere, che è un mestiere fondamentale, e ringrazio Laura Tamiozzo insieme a Salvatore Federico. Ringrazio Laura perché il coraggio di ricordare a tutti, dopo che tuo padre si è tolto la vita, ogni giorno con un impegno pubblico, che queste sono cose che bisogna evitare in un paese che ha negli sprechi, nella mortifera dilapidazione dello Stato di fronte a noi ogni giorno, l'esatto contrasto di quei valori, dell'onore, del valore dell'impegno, in cui tutti i lavoratori, autonomi e dipendenti italiani, che sono la forza di questo paese, quando vedono di fronte a loro dei politici che osano parlare dopo quello che fanno, ecco, allora io capisco che avere l'impegno pubblico quotidiano, quando tuo padre poi si è perso il lavoro e si è elevata la vita per questo, è ancora più degno di ogni commozione e ringraziamento. 9:40, 28 secondi, eccoci tornati qua in diretta, e buona serata a chi ci ascolta invece in replica. Stiamo di nuovo occupandoci di questa nuova ondata di piccoli imprenditori che si sono suicidati in Veneto di fronte a una crisi, altro che luce che si accende in fondo al tunnel, e altro che politica che ha fatto il proprio dovere, visto lo schifo melmoso che continua a emergere a questo punto in ogni consiglio regionale e provinciale, perché di questo si trattava. Tutti hanno fatto finta di non vedere che, oltre ai rimborsi per elettorali, i partiti si prendono e si spartiscono greppie di queste proporzioni. Naturalmente gli italiani invece molte tasse in più, perché bisognava dire loro che dovevano fare molto di più gli italiani. La politica ha fatto tutto quello che doveva, ma non diciamo stupida, per favore. E mi dispiace, ma vedere adesso politici doc di lunga data come Casini e Fini che si fanno scudo di Monti e della sua credibilità, a me fa morire dalle risate. Cioè, c'è chi associa il mio nome a operazioni di questo tipo, se lo possono scordare. Casini, Fini, per quello che mi riguarda, fuori dalla vecchia politica c'è una risposta concreta, con politiche molto diverse anche da quelle del governo Monti, forse per tenere in piedi l'Italia. Sarò matto, la penso così. Vediamo altre storie invece che ci sono arrivate, segnalate, che facciamo raccontare ai nostri ascoltatori che ce le hanno mandate. E con noi Leonardo Muti, storia naturalmente della divergenza e della distonia stridente tra che cos'è lo Stato e la condizione di chi sta male per effetto della crisi, o sta male perché è un soggetto debole della nostra società. Abbiamo qui con noi Leonardo Muti. Leonardo Muti ci ha segnalato questo caso che è veramente incredibile. Mentre avviene quello che avviene, appunto, alla regione Lazio, in tutte le regioni in cui va la Guardia di Finanza sta andando a fare gli accertamenti, c'è una cittadina italiana di 26 anni che è affetta da una sindrome molto pesante, quindi sta molto male, eppure succede che lo Stato gli leva anche quella briciola che gli aveva dato. È così, Leonardo? Sì, è così, Oscar. Allora, spiegaci un pochino la condizione in cui versa questa ragazza e di che cosa si trattava. Allora, prima ti devo fare un preambolo, visto la puntata, perché la Luigi sono un piccolo imprenditore. un piccolo imprenditore nel commercio con una piccola attività al dettaglio, e io ho sempre pagato le tasse nonostante sia un settore preso di mira anche da facili moralismi da colleghi di radio, per quanto riguarda l'evasione ho sempre pagato le tasse, anzi nel alla seconda dichiarazione dei redditi per il meccanismo veramente maligno degli acconti sono arrivato a dover pagare le tasse e ad attingere a tutte le riserve di denaro, compreso i soldi accantonati a una lista di nozze per un viaggio, perché mi ero sposata in quell'anno lì, perché mi chiedevo allo Stato il pagamento di veramente fiumi di denaro, oltre ogni capacità contributiva. Io con mia moglie abbiamo pagato, abbiamo sempre pagato tutto, siamo arrivati al dunque, appunto, come dice mia sorella, è affetta dalla sindrome di George, è una deletione del cromosoma 22, che gli comporta tanti problemi fisici, ma più che altro psichici e di relazioni sociali, quindi non riesce a 26 anni a avere delle normali relazioni sociali, tantomeno avere un luogo dove poter lavorare, quindi con grandi sacrifici, pagando sempre le tasse. Siamo arrivati e abbiamo trovato l'associazione Sipaglia di Firenze, che ha messo in piedi un progetto che si chiama appunto un inserimento socio-lavorativo formativo per questi ragazzi, che prevede dei piccoli lavoretti all'interno della cooperativa sociale in cambio di, oltre a sviluppare delle relazioni sociali con persone, un piccolo gettone, diciamo così, lavorativo. Un piccolo gettone che rientra in tutto il progetto di gratificazione del ragazzo e anche di fargli crescere l'autostima che non hanno. E quando si parla di piccolo, questo si parla gettone di veramente piccolo, sono 20 euro a settimana, per capirci. Sì, perché il gettone non sono ostriche, non sono diamanti, il gettone si parla di 10 euro al giorno. Questo progetto prevede due interventi a settimana, bene, per 4 mesi. Si parla di, per capirsi, 300 euro in tutto il progetto per questa ragazza. Quei 300 euro mi è arrivato una lettera che vi ho mandato, perché sono veramente esterrefatto, mi è arrivata questa lettera dalla Società per la Salute di Firenze, che apro una parentesi, io non capisco, in un sistema Stato dove c'è un assessorato al welfare comunale, c'è un assessorato alle politiche sociali provinciale, ci sono i servizi sociali dell'ASL, a Firenze abbiamo fatto invece una società per la salute che è partecipata dal comune e dall'ASL, ci abbiamo fatto buttato, si parla al bilancio di 10 milioni di euro, se si va a leggere il bilancio, e lei lo sa meglio di me, è un bilancio che fa sorridere a chi ha fatto anche delle embrionali studi economici, si va a vedere, sono aumentati l'attivo patrimoniale, è aumentato i contributi vari, quindi i vari cavi, sono aumentati i costi di personale che viene dislocato e mutato dal comune e dall'ASL, che gli viene dato questo personale, vengono quindi aumentati questi costi, quindi si è creato questo nuovo ente, quando ce n'erano altri tre che potevano fare il loro mestiere. Ma è la superfetazione del settore pubblico per far aumentare i costi e pagarsi meglio, è uno degli aspetti naturalmente più evidenti del fatto che la politica poi continua così a estendere i bacini dei propri. Per essere chiari, il settore pubblico persegue gli interessi di chi pro tempore lo occupa, dal punto di vista amministrativo e politico. Scordatevi se pensate di essere, voi ascoltatori, a casa i depositari del fatto che il settore pubblico ha a cuore la generalità delle finanze pubblica, ha a cuore innanzitutto la generalità precisa degli minoranze che lo occupano, questo è il punto di fondo. Risultato comunque, i 20 euro a settimana a questa ragazza affetta dalla sindrome di George, una deletione del cromosoma 22, sono saltati, Leonardo, e avete la possibilità di farli tornare indietro, sì o no? No, per adesso no, non ci sono, o meglio, la lettera del direttore tecnica di questa associazione, di questa società per la salute, non dice per quale motivo non c'è possibilità di pagare questo gettone, dice semplicemente che non verrà pagato, ecco. Non viene e non verrà pagato. Vorrà mica pretendere, Leonardo, di avere anche la ragione per cui questi 20 euro sono spariti. Questo è ciò che lo Stato poi riserva a chi sta davvero con guai seri. Qui stiamo parlando di malattie congenite che creano gravissimi problemi. I tuoi 20 euro a settimana, che era tutto quello che lo Stato poteva darti, te li scordi. Perché? Perché no? Come dice la canzone di Enzo Iannacci con cui cominciamo. Ecco, riparte Jim Morrison con This is the End. Francamente io sono ancora di questa idea, molti dicono che porta male, io continuo a ridere di questa cosa. Dopo il caso segnalatoci da Leonardo Muti andiamo a un altro caso, c'è un altro ascoltatore, Francesco Mingiardi. Francesco Mingiardi ci racconta invece la storia di un'impresa che operativa da oltre 10 anni nei settori dei servizi di igiene urbana e che è appaltatrice per sua sfortuna di servizi pubblici in favore di 3 comuni, impiega quasi 80 di lavoratori, 78 lavoratori, naturalmente va nei guai perché ha dei rapporti con l'AMA e chi ha rapporti col pubblico alla fine si brucia, perché il pubblico si comporta simmetricamente da erede di stati sovrani, delle monarchie assolute, e dice non ti pago. Più o meno è così, Francesco? Sì, è così. Questa impresa, la crisi di questa impresa nasce nel 2008 quando ha assunto l'appalto di alcuni servizi di igiene urbana nel Comune di Roma dall'AMA S.p.A., la quale, nonostante dovesse pagare a 60 giorni le proprie fatture, cioè le fatture di questa impresa, accumulava ritardi nel pagare ben oltre l'anno. Quindi sostanzialmente l'impresa non è da subito, non è stata più in grado di pagare diciamo, i propri fornitori e i lavoratori con tempestività, e ha dovuto fare ricorso ovviamente al credito scontando le fatture in banca. Se non che anche l'anticipo fattura ha dei tempi che sono molto più stringenti di quelli che sono i tempi dell'amministrazione, perché comunque le banche chiedono generalmente rientro a 180 giorni. È stato chiesto, diciamo, a scadenza delle prime fatture è stato chiesto il rientro all'impresa, la quale non è stata in grado di appunto rientrare degli anticipi, e così è andata in crisi finanziaria. E non ha potuto più diciamo quindi onorare i propri debiti con la banca, la quale sostanzialmente l'ha segnalata in centrale dei rischi, mettendola in difficoltà anche con gli altri istituti di credito alla quale, diciamo, l'impresa si appoggiava. E a quel punto l'impresa si è vista costretta, veramente costretta, a non pagare più o comunque non pagare più completamente i propri i contributi ai propri lavoratori e le tasse. È diventata quindi insolvente nei confronti dello Stato, inadempiente nei confronti dello Stato. Quindi lo Stato che non la pagava da una parte, lei è stata costretto comunque a rispondere non pagando lo Stato, non potendo tra l'altro interrompere il servizio di raccolta rifiuti, che è un servizio pubblico essenziale, sarebbe reato, diciamo, interrompere il servizio, quindi diciamo non c'è alcuna possibilità di comprimere i costi di gestione del servizio. E questa catena di eventi alla cui origine c'è lo Stato ladro e asimmetricamente volto solo a tutelare la propria cassa, e che assiste indifferente non solo ai guai che questo genera a chi lavora in appalto con lui, ma al fatto che lo si avvita in una crisi del credito e in una crisi di maggiore responsabilità civili e penali per mancati adempimenti fiscali e contributivi, porta l'azienda di cui stiamo parlando a poter evitare il default o a rischiarlo? No, lo rischia, adesso è un rischio molto molto concreto, una cosa che si vedrà a giorni, nel senso che l'impresa oggi è ancora appaltatrice di 3 comuni, solo 3, in passato ne aveva molti di più, ha dovuto abbandonare molte delle commesse, ma nonostante debba prendere circa 700.000 euro da questi comuni, ebbene non riesce a prenderli perché non riesce a presentare un DURC positivo. Le amministrazioni fanno un controllo all'INPS, verificano il documento unico di regolarità contributiva, il famigerato DURC, non è oggi regolare, e sostanzialmente non pagano l'impresa. Vogliamo dirlo che le promesse anche dell'attuale governo di sbloccare la situazione dei pagamenti per il momento a chi versa incolpevolmente nella situazione dell'impresa appaltatrice nel settore dei servizi di igiene urbana di cui stiamo parlando non ha provocato fino a questo momento alcuna alleviamento delle sue condizioni? No, assolutamente non ha provocato nessun alleviamento, anzi non si capisce per quali motivi i comuni che dovrebbero fare questa verifica della regolarità del DURC ogni 3 mesi la fanno sostanzialmente ogni mese, perché evidentemente si sentono a rischio, credono loro di incorrere responsabilità. Poi oggi invece abbiamo appreso che la stessa INPS diciamo soffre di un ammanco generato invece proprio dalle pubbliche amministrazioni, quindi voglio dire è una situazione paradossale, cioè una società che si trova in stato di default sostanzialmente per colpa del pubblico, Tra l'altro noi abbiamo depositato un ricorso del concordato preventivo in continuità aziendale, perché riteniamo che se questa situazione si dovesse sbloccare con una moratoria dei debiti che il giudice ha facoltà di concedere, e probabilmente riuscendo a dilazionare i debiti nei confronti si eviterebbe il default. Quindi è una cosa che si può evitare se la magistratura risponde con solerzia di fronte a un evidente Francesco, rendici informati del fatto se almeno un gradino di questo stato monarca assoluto ladro e il dilapidatore, cioè quello del giudice, riesce a evitare la conseguenza di buttare 80 famiglie per strada e a dilapidare il capitale di un'impresa che ha avuto una sola colpa: credere che la parola dello Stato, ladro, famelico, distruttore, immondo nella sua politica, potesse contare qualcosa. La sua parola non è onorata, perché sono senza onore chi pro tempore stanno alla testa di queste amministrazioni, politici e amministratori. A domani, cari ragazzi.